in primo piano. Questo martedì 14 giugno, ebbene sì, tutti i quotidiani aprono sui referendum. Ai referendum stravincono i sì, questa è l'apertura del Sole 24 Ore. Per il Corriere, trionfo dei sì, un colpo al governo. Per Repubblica, valanga di sì, schiaffo a Berlusconi. La Stampa, boom di sì, messaggio al governo. Libero, botta continua, c'è un Silvio Berlusconi disegnato con botte in testa, sangue da naso, cerotti in faccia, gli mancano i denti, insomma un Berlusconi che ha preso una brutta botta. Il Fatto Quotidiano, 26.857.452 hanno detto basta, sono gli italiani che hanno votato. Per il Giornale, ha vinto la paura, passano i referendum. Per Messaggero, vincono i sì, colpo a Berlusconi. Avvenire, referendum, stravincono i sì. Per l'Unità c'è un gigantesco sì, buongiorno Italia. Per il Manifesto, una folla festante di chi ha votato ed esulta, tutti al mare, questo è il titolo di apertura. Il Riformista invece alle corde e c'è Berlusconi. Per il Quotidiano Nazionale, il sì scuote il governo. Insomma, avete visto, le tematiche sono due, la vittoria dei sì e il tema politico, quello dello schiaffo, comunque messaggio al governo, così titolano i vari giornali. Vabbè, vedremo. Dopo la pubblicità, la questione dei referendum, intanto voglio partire da altre segnalazioni. La prima la troviamo su Libero. A pagina 23, butta fuori in spiaggia, succede a Jesolo. A Jesolo è stato assunto e sono stati assunti i primi steward anti-abusivi. Veglieranno sui clienti, cacceranno chiunque li disturba. Salvatore Garzillo ne parla. In spiaggia come in discoteca, non per la musica, la novità però è questa, arriva lo steward che è a guardia dello stabilimento, il concetto è questo, maglietta bianca, pantalone blu, si chiama Alessandro Regazzo, è uno degli uomini ingaggiati per il servizio di sorveglianza, il terrore di venditori ambulanti e vucumpra di ogni genere, e dice faccio chilometri di spiaggia ogni giorno, è un lavoro che dà soddisfazione, i turisti lo apprezzano, si sentono più sicuri e sono più tranquilli, al momento non ci sono lamentele. Ufficialmente la sua funzione è allontanare gli ambulanti dal perimetro, fornire supporto ai clienti in diverse lingue, ricordare loro che chi acquista merce contraffatta rischia una multa fino a 1.000 euro. Ebbene, eccolo qui, intervistato, parla anche al Corriere del Veneto, l'idea della sorveglianza sulla spiaggia è venuta a tale Amorino De Zotti, ideatore del Lungomare delle Stelle, titolare del Consorzio Marconi, che così dice: ho ridotto del 90% il passaggio dei vucumpra. I miei clienti sono sereni e apprezzano questo servizio. Arriva il butta fuori da spiaggia, come titola Libero. Poi un'altra segnalazione la troviamo sul Messaggero. Oh, attenzione cari amici, appassionati, cultori di Facebook, tra l'altro ci siamo anche noi, lo sapete, 24 mattino potete andare lì, potete diventare amici, potete dialogare tra di voi, perché attenzione, perché il fondatore di Facebook, Mark Zuckerberg, pare ormai sul punto di sposarsi. Il miliardario, uno dei miliardari leggendari, insomma, che ha fatto tantissimi soldi dal college con questa invenzione di Facebook, giudicato dal Jerusalem Post l'ebreo più potente del mondo, prende moglie. Il Messaggero ne parla, pagina 16. Pare ormai sia tutto certo, alcuni segnali lo danno per imminente sposo di quella che era la sua fidanzata dal tempo del college, Priscilla Chan. Si sono fidanzati chiacchierando mentre aspettavano di fare la fila al bagno durante una festa nel 2003 ad Harvard. Ebbene, da che cosa si deduce, racconta Anna Guaita del Messaggero a pagina 16? Beh, si deduce dal fatto che hanno cambiato il loro profilo su Facebook e dicono siamo fidanzati, e quindi si sa. Poi un amico ha detto che Priscilla è diventata la fiancée di Mark, e fiancée in America, quando si dice così in America vuol dire che c'è tanto di anello di fidanzamento, ormai la promessa è formale. Sappiate che Priscilla Chan, che sarà la futura moglie di Zuckerberg, gli ha imposto alcune cose, perché insomma quest'uomo giovane, miliardario, consultato da Obama in prima persona, viene tenuto a stecchetto così. Priscilla ha imposto a Mark un manuale di comportamento. Per restare con lui, la giovane donna vuole almeno 100 minuti al giorno, cioè 1 ora e 40, da soli. almeno 100 minuti al giorno da soli e in più almeno un appuntamento a settimana, tipo una serata al cinema o una cena al ristorante, altrimenti ti mollo. E così Zuckerberg prende moglie Priscilla, regina di Facebook, così titola il Messaggero. Vabbè, c'è tempo anche per un'altra segnalazione rapida, la voglio fare perché tra poco arriverà anche la prima intervista. Prendete queste dichiarazioni senza farvi il sangue amaro, senza, no, arrabbiarvi come su Facebook spesso ce lo scrivete, ma Cesare Battisti ogni giorno ci propina qualcosa, no? La perla di Cesare Battisti, presto arriverà anche la prima intervista, statene certi. Cesare Battisti dal Brasile a un giornale brasiliano il giorno dopo la liberazione, è un giornale che viene definito un foglietto trotskista, ha detto: bisogna voltare pagina negli anni di piombo senza vendette tardive. Oh, eccola qui la verità sugli anni di piombo di Cesare Battisti. Allora, alle 7:34 minuti, la notizia più sviluppata dai giornali, come detto, ovviamente è il trionfo di sì al referendum. Tra l'altro, ricordo dalle 8:20 alle 10 con Oscar Giannino uno speciale proprio su questo tema. Allora, si può decidere di analizzare la questione del referendum con alcuni editoriali che ho scelto sui vari giornali. Stefano Folli in prima pagina del Sole 24 Ore, il titolo: nelle urne il fallimento della politica, secco e brutale nel suo dualismo, sì o no? L'istituto del referendum rappresenta la via più semplice per affrontare questioni complesse, può apparire inadeguato, quindi non piacere, ma di sicuro permette di dar voce al popolo in modo clamoroso e trasparente. In questo caso è servito a dar fuoco alle polveri. Una politica stagnante dentro la cornice di un'economia altrettanto stagnante, un governo ingessato e di fatto immobile. Il bilancio fallimentare di una maggioranza che aveva trionfato nelle urne appena 3 anni fa, un presidente del Consiglio troppo indebolito dai suoi errori pubblici e privati per esercitare una leadership efficiente e soprattutto non più in sintonia con il paese dopo 17 lunghi anni in cui buona parte degli italiani aveva subito la sua suggestione carismatica. Ecco la montagna poco incantata che la mina referendaria ha fatto saltare. Così Stefano Folli. Per Giuliano Ferrara, in prima pagina del Foglio, che il berlusconismo, il titolo dell'editoriale è La locomotiva fricchettona, che il berlusconismo non goda di forma smagliante, ormai notizia vecchia, la novità, scrive Ferrara, potrebbe essere questa: sulla strada dell'alternativa al cavaliere, e non senza una qualche possibilità di riuscita, si delinea una carovana in cui le possenti masse organizzate da un'opposizione tradizionale ma politicamente afasica si fanno trascinare alla vittoria della locomotiva fricchettona. L'aggettivo è irrispettoso, ma le mie intenzioni sono buone. E chi è la locomotiva fricchettona per Ferrara? Sono i Pisapia, i De Magistris, i Di Pietro, i Vendola, i Grillo. Figure e figurine politiche di amalgama del nuovo mondo ideologico, dello sperimentalismo retorico di un altro utopismo possibile. Insomma, scrive Ferrara, la crisi del berlusconismo c'è, la si può leggere anche nei risultati del referendum. Né si intravedono energie capaci di sanarne gli effetti con un cambiamento politico e simbolico, ma continua a latitare un elementare principio di sostituzione del declinante sistema di consenso al cavaliere con un sistema di sostegno ad altra e diversa leadership. Dunque, denuncia Ferrara, se è in crisi Berlusconi manca l'alternativa, o meglio l'alternativa è questa locomotiva fricchettona, come la definisce Ezio Mauro in prima pagina di Repubblica. Il direttore scrive: il flauto magico si è spezzato, gli italiani dopo 20 anni rifiutano di seguire la musica di Berlusconi, 4 leggi volute dal Premier sono state bocciate da una valanga di sì nei referendum abrogativi che hanno portato quasi 27 milioni di italiani alle urne, Berlusconi come Craxi aveva invitato gli italiani a non votare andando al mare e gli italiani hanno risposto con una giornata di disobbedienza nazionale scegliendo in massa le urne. Vittorio Feltri in prima pagina del giornale, suggestionata da pubblicità ingannevole, più della metà degli italiani ha risposto al richiamo dei referendum che hanno ottenuto il quorum necessario. Non c'è da stupirsi. La politica non c'entra, scrive Feltri. Chi assicura che si sia trattato di una consultazione per dire sì o no a Berlusconi sbaglia sapendo di sbagliare. Ricorre cioè a un'interpretazione forzata del voto nella speranza di far saltare il banco, buttare giù il governo e sostituirlo con un sarchiapone tecnico in attesa di elezioni anticipate. Mentre, per concludere, insomma, in questa scelta, Antonio Padellaro, direttore del Fatto Quotidiano, in prima pagina il titolo della sua editoriale è Liberazione. Come Craxi, l'uomo di Arcore, travolto dal voto popolare, minimizza, sperando in tempi migliori, che però possono essere solo peggiori, non si rende conto di essere già a Salò, con la liberazione alle porte. Come sempre, è la spinta del popolo a cambiare le cose, non le congiure di palazzo. Così Antonio Padellaro. Insomma, come vedete, questa è una carrellata, insomma, di editorialisti, anche orientati politicamente in modo diverso. Il dato di fatto è che c'è la vittoria dei sì, c'è il quorum raggiunto e non succedeva da tanti anni, e ci sono anche i commenti, oltre che gli editorialisti, i commenti politici. Intanto c'è un commento ufficiale, quello della nota di Berlusconi, che ha parlato di alta affluenza che dimostra la voglia di partecipazione dei cittadini, la volontà degli italiani è netta su tutti i temi della consultazione. Questo è il commento ufficiale di Palazzo Chigi. In realtà, secondo, e qui bisogna sempre affondare nei cosiddetti retroscena della politica, Marco Galluzzo sul Corriere racconta tre frasi che avrebbe detto Berlusconi ai suoi stretti interlocutori, ai suoi stretti amici, alla cerchia di persone di cui si fida di più, che sono frasi, beh, insomma, molto, molto forti. Il risultato non si può ignorare, il mio governo va avanti, ma ecco l'amarezza del cavaliere, mi sono accorto che gli italiani non mi ascoltano più. Non mi hanno ascoltato e non è più come una volta. Ed ecco la terza frase: c'è poca gente che mi vuole bene. Questo diceva domenica notte, mentre i numeri dei votanti continuavano a salire in tutta Italia. E ieri invece è apparso più rinfrancato, ha fatto il suo giro consueto in un negozio di bigiotteria comprare qualche dono, e poi insomma anche quella frase sul bunga bunga con il premier israeliano commentando il quadro, un quadro alle spalle della conferenza stampa. Palazzo Chigi ha detto: questo è il Parnaso di Appiani, l'ho detto a Netanyahu, praticamente è il bunga bunga del 1811, io sono quello lì, era un personaggio ritratto, dipinto, attorniato da alcune muse, e quell'altro è Mariano Apicella. Insomma, questo ha detto Berlusconi. Vabbè, l'altro tema molto forte è quello della Lega. La Lega, basta prendere la Padania in prima pagina oggi, sberle e coraggio, questo è il tema, come ha detto Calderoli, un altro schiaffo, ora è tempo di coraggio. La Lega è in grande fibrillazione. Perché, come scrivono tutti i notisti politici, la Lega, che dice basta sberle con Calderoli, ora la si smetta, però in grande fibrillazione anche all'interno del partito. Domenica c'è il raduno di Pontida, qualcosa succederà. Addirittura il Corriere della Sera fa notare a pagina 5 che sulla padania.org, un forum non ufficiale, ieri è comparso questo sondaggio. Il quesito: dopo la sconfitta, che fare? E l'ipotesi 1 era: Bossi lasci la guida del partito. Un qualcosa che scrive Marco Cremonesi, non è un segnale anche molto forte, non è mai successo. Per esempio, Bossi ha invitato palesemente a non andare a votare, e Maroni invece è andato a votare, ha detto: io sono andato a votare. Allora, che sta succedendo anche all'interno della Lega? Secondo Libero, per esempio, Libero la mette così. Il piano di Maroni, strappare la Lega a Bossi e a Silvio. Pagina 7, Matteo Pandini. Bobo smentisce Umberto, annuncia di aver votato sì, poi dà l'ultimatum: o si cambia o si va al voto. Questo l'ha fatto in un'intervista al Corriere della Sera. Ed ecco qui, secondo Libero, la strategia di Roberto Maroni è quella di cercare di strappare addirittura la Lega a Umberto Bossi. E anche i dubbi del Cavaliere sulla Lega nel retroscena di Francesco Bei su Repubblica: Bossi non controlla più il suo partito, Bossi ha perso come noi. Poi vabbè, ci sono alcune interviste di chi dice: non abbiamo perso, per esempio il ministro Paolo Romani: ma quale batosta, si è raggiunto il quorum grazie anche agli elettori del PDL, intervistato da Paolo Festuccia sulla Stampa. Il risultato, a guardarlo bene, non fa altro che confermare le scelte già fatte dal governo. C'è chi invece è molto critico, come Renata Polverini, accusata e bollata come, secondo retroscena della politica, da Silvio Berlusconi, la traditrice, perché è andata a votare, ma non solo, perché sta facendo anche segnali un po' di rottura con il PDL. Intervistata dal Corriere della Sera da Fabrizio Roncone, a pagina 9, dice... Ok, le dico che è stato un errore invitare gli italiani a restarsene a casa o andarsene al mare. E poi su Berlusconi, proprio l'accusa di essere una traditrice, dice ma no, ma sì, la considera una traditrice perché sono andata a votare? Beh, esatto. Beh, insomma, inutile prendersi in giro. Siamo davanti a un segnale che Berlusconi riceve direttamente forte, davvero ad personam. Questa parola non è casuale. Mi dispiace, ma per lui purtroppo, sul serio, non è un gran momento. Questo Renata Polverini, governatrice del Lazio, intervistata dal Corriere della Sera. E la sinistra, beh, intanto Di Pietro mantiene la promessa di dire non metterò il cappello su questa vittoria, non chiederò per questo le dimissioni di Berlusconi. Mentre Bersani, intervistato da Repubblica, pagina 4, dice hanno divorziato dai cittadini, il governo e la paralisi, siamo pronti alla sfida del voto, ora cambia moltissimo, chiediamo le dimissioni del Premier, ma vorrei chiarire che non le chiediamo dopo il referendum, le chiediamo da tempo. La conferma è arrivata, siamo alla svolta, il PDL Berlusconi ha divorziato dai cittadini. Guardando i risultati non ho potuto fare a meno di ridere. E, mentre Enrico Letta, intervistato dal Corriere, va oltre e dice è la presa della Bastiglia, con Monica Guerzoni che le chiede non sta esagerando Enrico Letta del Partito Democratico? No, guardi, come spesso accade nella storia, uno strumento può diventare un elemento di svolta perché capita al momento giusto e sui temi giusti. Anche la Bastiglia è stata, come il referendum, una cosa nata quel giorno con obiettivi che poi sono passati alla storia. E questa è la spallata che sognavamo. Iena è sempre graffiante sulla stampa, in realtà sulla sinistra. La sinistra rivince e si interroga: dove abbiamo sbagliato? Questo Iena oggi sulla stampa a pagina 3. Vabbè, delle battute di Berlusconi gli ho dette, il bunga bunga, il Parnaso, l'unità con Umberto De Giovannangeli, è andato a pagina 14 a quel punto a sfrucugliare un po' i corrispondenti della stampa israeliana, perché era in conferenza stampa con Netanyahu. Apicella? Who is Apicella? Si chiede un po' stupito una giornalista israeliana. La risposta del suo interlocutore è un'alzata di ciglia, meglio lasciar perdere. Qualcuno dei giornalisti ricorda che in Israele, quando l'ex presidente ha avuto problemi legati a qualche molestia sessuale, cosa di tutt'altro tipo per la verità, è finito in carcere, e qualche altro dice ma è possibile dire scempiaggini di fronte a un'opera d'arte? Vabbè, insomma, così l'unità, dice Berlusconi, può. In ogni caso, il bunga bunga del 1811, questo ha detto al premier israeliano Netanyahu. Vabbè, per la questione del referendum vi rimando poi, ripeto, alle 8.20 fino alle 10, insieme a Oscar Giannino cercheremo con ospiti politici di analizzare questo voto. Ho sul Sole 24 Ore l'apertura dedicata appunto ai referendum, ma vediamo i due temi economici che voglio segnalare. Tra l'altro vi ricordo che oggi sul Sole 24 Ore c'è una interessante pagina di istruzioni per l'uso per... E i soggetti IRES in particolare, cioè coloro che devono effettuare il primo versamento delle imposte legate alle dichiarazioni dei redditi IRES e IRAP il 16 giugno, entro questa scadenza, e ci sono tutte le istruzioni dell'uso per dedicate, istruzioni per l'uso dedicate alle società. Come insomma capire la presunzione di distribuzione di utili, la distribuzione di utili in presenza di compagine societaria variegata. Trovate tutta pagina 36 per non sbagliare. Io c'ho l'incubo ogni anno della dichiarazione dei redditi, per non sbagliare me la sogno di notte, e dunque leggetevi le istruzioni per l'uso. Come detto, i due temi economici, ha rilanciato il presidente di Confindustria Marcegaglia sulla questione dei contratti. Marcegaglia accelera sui contratti. Trovate a pagina 10 la lettera ai sindacati, abbiamo sentito anche in GR24, per un summit a breve per le relazioni industriali, per rinnovare la concertazione sulle relazioni industriali più moderne, oltre ovviamente alla riforma del fisco, sulla quale continua a battere il presidente di Confindustria sulla necessità di doverla fare. Ebbene, per quel che riguarda le relazioni industriali, l'annuncio della lettera ai sindacati per sollecitare l'incontro a breve, anche settimana prossima, il necessario che cosa? L'esigibilità delle intese, vale a dire l'idea del presidente di Confindustria è questo: fare accordi siglati dalla maggioranza delle RSU e le RSA e che questi siano validi per tutti, senza che poi possano essere messi in discussione magari da sigle minori. Questi, il tema delle relazioni industriali lo trovate a pagina 10, mentre l'altro tema economico e anche politico del giorno, legato anche alla questione del referendum, è lo stallo politico sul decreto sviluppo, come racconta Marco Mobili a pagina 15, subito dopo la questione del referendum, o legata lo stesso giorno della vittoria dei sì al referendum. La maggioranza è andata a rischio su un emendamento, uno dei tanti emendamenti ancora da esaminare al decreto sviluppo, perché non si è faticato e non poco a trovare i voti per respingere un emendamento del PD con un 43 pari, un emendamento di Pierpaolo Baretta sul credito d'imposta alla ricerca è stato respinto, è stata immediata la sospensione dei lavori, rinvio dell'esame del provvedimento a oggi, e quindi insomma già qualche fibrillazione politica dopo il referendum si può vedere anche sulla questione del decreto sviluppo. Che cosa voglio segnalare, visto che il tempo vola? Beh, intanto una questione economica, ma anche di cronaca. La Mette Repubblica, pagina 24: anarchici o una bomber, il giallo degli attentati all'IKEA. Beh, ci sono ordigni, non è la prima volta, in tutta Europa che colpiscono l'azienda diventata simbolo del discount dell'arredamento, no? La più famosa al mondo. Beh, in Belgio, in Francia, in Olanda, 3 bombe nello stesso giorno, il 30 maggio scorso. Poi venerdì 10 giugno è toccato a uno stabilimento in Germania, un ordigno esploso nella capitale sassone, Dresda. Feriti leggeri, molta paura, nulla di più, ma il giallo tiene l'Europa intera col fiato sospeso. Chi sono i terroristi misteriosi che colpiscono stabilimenti dell'IKEA? Non si sa chi siano, non si sono mai fatti vivi con rivendicazioni politiche, richieste di riscatti, si sospetta gruppi estremisti come gli anarchici delle bombe spedite dalla Grecia, frange violente, radicali incontrollabili della galassia No Global, ma insomma c'è questo spettro dei bombaroli nei confronti dell'IKEA che resta inafferrabile, e Repubblica vi dedica mezza pagina su questo giallo degli attentati a IKEA. L'azienda dice: non abbiamo ottenuto nessun tipo di minaccia. C'è Gheddafi che gioca a scacchi, non è una barzelletta, lo trovate fotografato, ha invitato il presidente della Federazione Internazionale di Scacchi, Kirsan Ilyumjinov, e si è fatto ritrarre a giocare a scacchi, tanto che è proprio, fornisce i titoli ai giornali: la guerra del Rais, la partita scacchi contro la NATO. E c'è due notizie di cronaca con cui voglio concludere. Una sulla Stampa: Tanzi deve restare in cella. Calisto Tanzi, ve lo ricordate, è entrato il 5 maggio scorso in carcere, tutti pensarono ci sarebbe rimasto qualche giorno per la sua età prima di ottenere i domiciliari, invece per la seconda volta l'ex cavaliere del lavoro, condannato a 8 anni e un mese, ricordiamo, per aggiotaggio, è stato respinta la sua richiesta al Tribunale di Sorveglianza di Bologna, per la seconda volta nel giro di un mese rimane in carcere Calisto Tanzi. E infine, se non è una provocazione ditemelo voi, a pagina 21 del Quotidiano Nazionale, beh, il sindaco di Arcore, che è una donna, si chiama Rosalba Colombo, e che ha espugnato, nel senso che è del PD, nel luogo simbolo, nel luogo della residenza del Presidente del Consiglio ad Arcore, ha espugnato le amministrative, insomma al centrodestra la città, ora dice: perché no dare la cittadinanza onoraria a Roberto Benigni, cittadinanza onoraria di Arcore. Benigni aveva scherzato dicendo in uno spettacolo: ma come, io che prendo in giro Berlusconi da 17 anni non mi danno la cittadinanza onoraria di Arcore, la voglio chiedere ufficialmente. E il neo sindaco ha detto: perché no, stiamo studiando. Certo, non è un residente, dovremo trovare una motivazione, vedremo, cercheremo, però di Benigni mi piacciono i suoi film, comunque sono andato a vedere un paio di suoi spettacoli, ad Arcore cittadinanza o no sarà il benvenuto, e chissà, A Roberto Benigni verrà data la cittadinanza onoraria ad Arcore? Ve lo vedete Benigni che va a ritirare la cittadinanza onoraria ad Arcore, nel comune di Arcore, che è a 200 metri dalla villa di Silvio Berlusconi? Cosa potrebbe dire? Ma non lo so, la scena già però insomma fa pregustare qualcosa, che viene da dire dategliela giusto per vedere la scena.